Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Un saluto da Maurizio Melis. Una delle metafore numerose, per la verità, che si possono utilizzare per definire il concetto di Smart City, da cui prende poi il nome anche la nostra trasmissione, è quella di una città, per così dire, governata in tempo reale. Questo grazie alla capacità che abbiamo acquisito di raccogliere dati da milioni di punti diversi, elaborarli e prendere decisioni in frazioni addirittura di secondo. Da questo punto di vista è cruciale sia sviluppare nuove infrastrutture di monitoraggio, sia monitorare le stesse vecchie e nuove infrastrutture che albergano in città. Ebbene, soluzioni ingegneria che abbiamo già incontrato qualche tempo fa, società di innovazione di ricerca e sviluppo nata nell'orbito del Politecnico di Milano, sta lavorando ad un nuovo approccio, per così dire, che potrebbe essere riservato ad alcune infrastrutture che con una ignominiosa semplificazione potremmo definire dei tubi parlanti. Ci facciamo spiegare tutto e soprattutto ci facciamo spiegare meglio da Marco Pezzola, responsabile generale nonché fondatore a suo tempo di Soluzioni Ingegneria. Buonasera Pezzola, bentornato. Buonasera. Allora, senta, partiamo dalle basi. Come si fa a rendere un tubo, un qualunque tubo, diciamo così, attivo da un punto di vista acustico? Perché di questo stiamo parlando. Si riesce a rendere attivo un qualunque tubo posizionando sulla struttura stessa un sensore barattuatore, per esempio di natura piezoelettrica. Il principio piezoelettrico è un principio bidirezionale, fondamentalmente, che ci consente di dare corrente, per farla semplice, a queste terminazioni. Le terminazioni iniziano a muoversi. Nel muoversi generano degli impulsi, delle movimentazioni all'interno della struttura. Quindi viceversa, questo piezoelettrico di solito è un pezzo di un cristallo, di solito è quarzo. Se gli diamo degli impulsi elettrici, lui vibra sostanzialmente. Se invece viene sottoposto a vibrazioni, stava dicendo, lui genera una corrente che può essere registrata e quindi rielaborata per diverse applicazioni, esattamente come fa un qualunque microfono, per capirsi. Esatto, corretto. Ecco, a questo punto diciamo che abbiamo dotato un tubo di questi piezoelettrici studiati appositamente. Che cosa ci possiamo fare? Quali sono gli scenari di applicazione? Fondamentalmente possiamo monitorare quello che è lo stato di funzionamento dell'impianto, e per impianto si intende la rete idrica di un comune piuttosto che l'impianto di una centrale. E cosa succede nel caso in cui dovesse generare un malfunzionamento di processo o un'alterazione del tubo stesso, quindi una corrosione accelerata, un'apertura, una perforazione, c'è una perdita d'acqua, no? Per esempio in una rete idrica, cosa certo non rara, ecco. Assolutamente, nel nostro caso. Cosa succede? Il sensore riesce ad accorgersi tramite le vibrazioni che propagano sulla struttura medesima e quindi segnalare questa informazione in remoto, quindi richiamare poi l'attenzione in sede di manutenzione e ispezione nella sezione di interesse. Quindi una capacità di diagnosi sostanzialmente basata sui rumori che sviluppano eventuali difetti o problematiche all'interno di queste strutture. E qui diciamo che il tubo funziona un po' da microfono. Se ho capito bene, invece può funzionare anche un po' da, come dire, linea di trasmissione di dati. In teoria si potrebbe fare anche questo. È possibile? Assolutamente sì, ed è effettivamente la seconda funzionalità del piezoelettrico. Cioè ipotizziamo di dover trasferire dal punto A al punto B delle informazioni. Noi possiamo trasformare queste informazioni in digitali e trasmettere con degli impulsi all'interno della struttura queste informazioni, sfruttando proprio la propagazione della vibrazione all'interno del tubo. In questo caso è un po' come quando si appoggiava l'orecchio sul binario per sentire il treno che stava arrivando. Perfetto. Ecco, mi pare di poter dire tra l'altro che questo vostro approccio ricorda un po' quello che si sta praticando nel settore della pubblica illuminazione, dove i sistemi di illuminazione sono già esistenti, ci sono i cavi che li alimentano. Ecco, si è capito che lì, tramite le cosiddette onde convogliate, si possono anche far passare dei dati. Quindi abbiamo delle infrastrutture che già esistono, abbiamo bisogno di monitorarle, di farci passare dei dati, possiamo sfruttare quello che già c'è. È un po' questo, no? Mi pare di capire il concetto. Evitare di dover riposare, ricablare delle linee dedicate. Questo assume un significato strategico se pensiamo ad applicazioni, per esempio, di perforazione sottomarina, cioè in ambienti particolarmente aggressivi, dove dover posizionare dei tubi paralleli o delle condotte per la segnalazione inizia a essere un costo, un onere e una complicazione. Se la struttura stessa già adibita alla trivellazione o a chiudere la punta a trivellare può trasmettere le informazioni critiche, tanto meglio. Grazie, grazie Marco Pezzola e buon lavoro. Grazie, grazie a tutti. Ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani.